Parte terza, capitolo 21. C'era una baia a 5 minuti di remi lungo il lago, raggiungibile doppiando una lingua di canne palustri che affioravano dall'acqua. Portando il barchino oltre la punta di una delle propaggini del canneto, si approdava una spiaggetta costituita da miriadi di minuscole conchiglie, sulla quale torreggiava una quercia dalle radici scoperte che ne ombreggiava una parte. Il terreno, che si inerpicava verso l'entroterra, invece, era coperto da una vegetazione di ciuffi di erba incolta. Lì era possibile sedersi e ascoltare il debole sciabordio dell'acqua che si infrangeva più in basso, sulla spiaggia, e osservare i bagliori del sole attraverso il frullio d'ali di una moltitudine di gabbiani. Da lì non si poteva scorgere Kökense, e da Kökense non vi era modo di vedere la spiaggia. Ingeborg poteva quindi cingersi le ginocchia con le braccia e mettersi a pensare. Dietro di lei si estendevano i campi di segale, di fronte si ergeva la foresta. Era un angolo di dolcezza, di soffusa luce pomeridiana, di colori sfumati, con quei toni dell'argento, dell'azzurro e dell'oro pallido che le canne palustri assumono a ottobre. In quel luogo Ingeborg non portava con sé Robertlet. Aveva deciso, dopo 4 mesi di stretta convivenza in cui si era sgombrata la mente da ogni possibile concezione erronea, che era troppo giovane. Con i sogni di tutto ciò che avrebbe fatto insieme ancora ben presenti, era dispiaciuta di dover ammettere che preferiva stare sola, che doveva occuparsi d'altro, per quanto l'amasse con tutto l'ardore di una madre. Quel figlio era davvero bravo, non piangeva mai, benché non si producesse nemmeno in ciò che lei considerava l'opposto di piangere, cioè lanciare gridolini di gioia. Non si lamentava e non batteva le mani. Mangiava con appetito e dormiva con puntualità. Cresceva forte e robusto sotto gli occhi di chi lo osservava. Chi non l'avrebbe apprezzato? E dal canto suo lei lo apprezzava come mai nessun altro. Ma quell'amore appassionato, che a detta di tutti, ogni madre provava nei confronti del suo primogenito, era per lei un sentimento che necessitava di continue conferme. Ma certo, si ripeteva Ingeborg. Era un bambino grave, serio, e nonostante lei si impegnasse al massimo per incoraggiarlo al riso tramite buffe e smorfie, i suoi sforzi non sembravano sortire alcun risultato. Un giorno, mentre era china su di lui tentando di strappargli un sorriso attraverso un elaborato solleticamento delle costole, ne colse lo sguardo e istintivamente balzò all'indietro. Lo fissò sbigottita, percorsa dall'orrido pensiero di aver te stesso leticato sua suocera. Era la prima volta che la notava, ma la somiglianza era lampante e una volta colta inequivocabile. Non vi era alcuna traccia, rilevò, mentre esaminava il figlio tremebonda dei lineamenti di Robert oppure dei suoi. E per quanto riguardava la sua famiglia, che ne era stato di tutta quell'incredibile bellezza, dell'aitanza del vescovo, dell'avvenenza sbalorditiva di Giudite, delle fattezze regolari di sua madre. Robertle assomigliava a Frau Dremmel in modo impressionante. Era come se il bimbo fosse stato generato dalla suocera stessa attraverso un qualche miracoloso procedimento che non necessitasse la compartecipazione di un secondo individuo. La loro somiglianza era palese e cresceva a dismisura ogni poppata. Il bimbo aveva i medesimi occhi dallo sguardo fisso, i medesimi prolungati silenzi. Anche il naso era esattamente uguale a quello dell'anziana donna e la sua testa calva, pensò Ingeborg assurdamente, era, se possibile, ancora più fedele dell'originale posto sulla sommità di Frau Dremmel. Semmai i capelli del figlio fossero cresciuti, si disse scrutandolo, occhi sgranati, era certa che si sarebbero disposti sin da subito a forma di crocchia. Con il passare dei giorni e il farsi della somiglianza via via più incisiva, Ingeborg arrivò al punto di sentirsi indiscreta, come ad esempio quando lo lavava cospargendo poi di talco le numerose pieghe della tenera pelle. Annunciò Herr Dremmel, e lui la guardò senza capire che senz'altro la prima parola di Robertlet sarebbe stata Bratkartoffel. E perché mai? Le chiese con voce attutita, in quanto proveniente da oltre una spessa cortina di elucubrazioni. Vedrai se non ho ragione, asserì Ingeborg con aria turbata. Ma la prima e per lungo tempo unica parola di Robert fu Nein. La successiva, prodotta solo alcuni mesi più tardi, fu Adieu, arrivederci, e il bambino la pronunciava non appena qualcuno metteva piede in casa. Non è molto ospitale, pensò Ingeborg, ricordando con un brivido che non una volta dal matrimonio con suo figlio la suocera l'aveva invitata a casa sua a Moek. Subito però trovò una scusante. Tutti, si disse, sono un po' sulle sue all'inizio. In quei pomeriggi d'autunno, soffusi di sfumature di delicato colore, durante il sonno di Robert Lett, Ingeborg raggiungeva quel meraviglioso scampolo di lago per, come diceva lei, chiarirsi le idee. Vale a dire, sedeva sulla spiaggia di conchiglie abbracciandosi le ginocchia e fissava oltre le acque calme il pallido profilo del canneto. Quanto prima, però, dovette prendere atto che quelle riflessioni sfociavano in un abbandonarsi all'afflizione generale, punteggiato qua e là da sprazzi di razionalità, più che strutturarsi in una qualsivoglia pensiero chiarificatore. Era come se le questioni da chiarire si rifiutassero di lasciarsi mettere a fuoco. Inoltre la sua gravidanza la rendeva ancora sofferente e come era possibile, si chiese, che una persona tanto impegnata a tenere a bada la propria nausea potesse mai occuparsi d'altro. Il non riuscire a chiarirsi a alcunché la amareggiava alquanto. E i suoi occhi si colmavano di lacrime di paura allorquando una reminiscenza di quella passata, traumatica esperienza lanciava lugubri bagliori illuminando il cammino che l'attendeva. Allora sentiva un'atroce lancia di terrore trafiggerle il cuore. No, pensò Ingeborg, tremante, percorsa da brividi gelidi, distogliendosi subito da certi ricordi. Meglio non pensare, meglio limitarsi a sedere al sole e immaginare come sarebbe stato Robert Lee tra un po' di tempo, quando, se la somiglianza fra Audrey e Mel fosse cresciuta con l'età, sarebbe stato tempo di procurargli dei pantaloni. E se anche l'altro figlio in arrivo si fosse rivelato una coppiata di Frau Drenne? Chissà se tra breve avrebbe dovuto mettersi a insegnare filastrocche a uno stuolo di piccole suocere. La persona di Frau Drenne si sdoppiò, si assottigliò, diventò una figuretta in calzini e grembiulino che, ben composta e ritta ai piedi della madre, ripeteva farfugliando rime infantili. L'immagine la fece scoppiare in un riso convulso. Rise spasmodicamente per un po', arrestandosi solo per constatare che in realtà stava piangendo. Forse ho bisogno di parlare, più che di riflettere, disse infine Herr Dremel, rientrando a casa da una di queste spedizioni infruttuose in cerca di chiarezza. Lo disse con una certa retrosia, consapevole di contare per lui molto meno di quanto avesse contato in quel breve intervallo di buona salute e sapendo che nei mesi successivi avrebbe contato sempre meno. Strano. Come si sentisse sicura di lui quando non era in attesa di un figlio, quanta fiducia avesse nel suo amore e come invece questa fede sembrasse venir meno quando lo era. Era solo all'inizio della gravidanza, ma egli era già miglia di distanza da quello stato d'animo pieno di slancio e vitalità che lo spingeva a prenderla tra le braccia, a coccolarla e a chiamarla mia pecorella. Erdremme, che stava cenando, ignaro del contesto che aveva generato la necessità di parlare, le raccomandò invece di riflettere e dopo una pausa aggiunse che solo una donna avrebbe potuto concepire una distinzione fra quelle due azioni. Ingeborg si astenne dal dargli l'ovvia risposta e gli confessò invece la sua forte necessità di dialogare con qualcuno, con lui per esempio, mentre le teneva la mano e ben stretta per giunta, così che lei avesse potuto sentirsi al sicuro. Non così dilaniata e smarrita in quel mondo solitario e crudele. Herr Dremmel gettò un'occhiata all'orologio e disse che probabilmente la settimana successiva avrebbe avuto un po' di tempo per tenerle la mano. Alcuni giorni più tardi, sempre senza fornirgli alcun elemento di contesto, gli disse: Non è altro che una benedizione camuffata. Ecco che cos'è. Herr Dremmel, che di nuovo stava cenando, non disse nulla, preferendo attendere. Sì, una benedizione che finge solo di essere crudele, ma che in ultima analisi non lo è davvero. Herr Dremmel per l'ennesima volta optò per l'attesa. Sai, all'inizio pensavo che fosse crudeltà, gli disse, ma ora credo che forse sia una benedizione. Che cosa esattamente credevi fosse crudeltà, Ingeborg? Chiese Herr Dremmel, al quale la ripetizione di quella parola non piacque. L'avere il secondo figlio così vicino al primo, senza tempo sufficiente per dimenticare, disse, sentendo gli occhi riempirsi di lacrime. Crudeltà, Ingeborg? Le chiese. Indi la informò che una donna, in particolar modo la moglie di un pastore, non poteva permettersi di denominare la provvidenza in quel modo. Ma è proprio quello che sto dicendo, gli spiegò. All'inizio mi sembrava una crudeltà, ma ora capisco che il non perdere tempo tra un figlio e l'altro si rivelerà un gran beneficio, grazie al quale potrò stare bene per il resto dei miei giorni. Sarà motivo di piacevole contrasto dopo, quando avrò definitivamente chiuso con il dolore. Sì, poi sarà splendido. Ingeborg osservò il marito, tormentandosi le mani. Vivide reminiscenze le accendevano vampate di paura negli occhi. Però rinuncerei molto volentieri a quel contrasto, bisbigliò, mostrando all'improvviso tutti i segni del terrore che le attanagliava il cuore. Herr Dremmel le ricordò che la vita familiare veniva elogiata da sempre, non solo per la sua bellezza e importanza, ma anche quale elemento necessario alle fondamenta di uno Stato. Mi avevi detto, disse Ingeborg usando quel trucchetto che spesso gli uomini trovano sempre irritante, e cioè il ricordare ogni cosa che hanno detto in passato, che le fondamenta dello Stato sono costituite dal concime. Dremel confermò ogni parola, non aveva nessuna intenzione, le comunicò di perdere tempo in cavilli. Il punto che desiderava chiarire era l'ovvia impossibilità di una vita familiare senza una famiglia attraverso cui realizzarla. Ma non consideri me e Robert Lett una famiglia? Gli domandò. Cosa? Un solo figlio? Domandò costernato Herr Dremmel. Limiteresti la famiglia a un unico figlio? Sarebbe una linea di condotta decisamente poco cristiana. Ma la linea di condotta cristiana fa così male, mormorò Ingeborg. Oh, lo so che ci devono essere fratelli e sorelle, aggiunse rapidamente prima che egli riprendesse la parola, ed è quindi meglio impegnarsi subito. E poi non pensarci più. È solo che speravo che Robert avrebbe costituito una famiglia sufficientemente ampia fino a che io avessi avuto tempo di dimenticare. Di nuovo quel lampo di terrore balenò nei suoi occhi. Abbassò lo sguardo sul piatto per celarlo alla vista del marito. Successivamente, in altre due occasioni, rientrando dalle sue meditazioni sulla sponda del lago, Ingeborg tentò di intavolare una discussione sulla vita e sulla morte. Herr Dremmel però era uno di quegli individui che non trovavano alcun interesse nel dibattere tali argomenti, a meno che la vita o la morte in questione non fossero la sua. Comunque sia, egli affrontò la discussione con pazienza. Ingeborg arrivò ansante, dato che il cammino verso casa si inerpicava parecchio, manifestandogli il bisogno disperato di confrontare la sua visione con quella di lui, così da potersi rinfrancare lo spirito e acquisire coraggio. Egli però assunse un'espressione paziente ancor prima che Ingeborg avesse modo di iniziare. A fronte di quella prematura rassegnazione, il suo eloquio si tramutò in un balbettio e quanto prima si spense nel silenzio. Le parole che si era preparata le affollavano in mente, ingarbugliandosi in frasi sciocche. Persino lei stessa si accorgeva di quanto fossero assurde man mano che le pronunciava. Non c'era da stupirsi che lui mettesse su quell'aria di sopportazione. Ingeborg avrebbe potuto piangere per la frustrazione che le davano i suoi termini poco eloquenti, la sua mancanza di una vera istruzione, la sua incapacità di distogliere i pensieri dalla confusione in cui regnavano e di ordinarli in periodi ricchi di costrutto. E lì c'era Robert che l'attendeva, con quell'aria condiscendente. Ma che strana, si disse. La differenza fra la loquacità di Robert precedente al suo rimaner gravida e quel silenzio, un silenzio carico di malcelato fastidio adesso. Desiderò aver avuto una cultura più ampia in fatto di mariti. Desiderò che durante gli anni trascorsi nella casa paterna, invece che scrivere tutte quelle lettere per la diocesi, avessi riflettuto con più maturità sulla questione del matrimonio. Mentre i giorni scorrevano veloci, il bisogno di parlare con qualcuno, la paura di rimanere sola con la sua immaginazione e quei lampi di reminiscenza le divennero del tutto intollerabili. Infine, spinta dal panico, si recò dalle madri del villaggio, ponendo loro domande ansiose su che cosa avessero provato, su come avessero superato il trauma del parto e nei periodi in cui si sentiva meglio, girovagò per giorni interi attorno alle case dove abitavano le famiglie più numerose. Per peregrinazioni, ahimè, infruttuose, in quanto l'atteggiamento più diffuso risultò essere un'ottusa rassegnazione, uno scrollar di spalle, una torbida stanchezza. Allora ebbe l'idea di presentarsi alla moglie del postino, una donna dall'aspetto particolarmente vivace e materno, ma scoprì che non aveva figli. Un giorno nella foresta incontrò il guardiaboschi. In lei albergava un bisogno così devastante che giunse al punto di formulare anche a lui i suoi ansiosi quesiti, dato che l'uomo aveva un aspetto persino ancora più materno della moglie del postino. Poi si ricordò della baronessa Glumbeck, che prima della nascita di Robert le era stata vicino per le questioni pratiche. Perché non sarebbe potuta risultare d'aiuto anche in quel frangente di travaglio spirituale? Il suo bisogno di conforto era così pressante che un pomeriggio di novembre si decise a farle visita, mettendo da parte ogni forma di reticenza e convinzione sociale, convinta che fosse possibile improntare l'incontro a un momento di comunione tra due anime messe a nudo da impellenti necessità. Dopo aver faticato non poco a causa della strada dal fondo sabbioso e bagnato, scoprì che nulla quel giorno poteva essere meno nudo dell'animo della baronessa, la quale era vestitissima con tanto di guanti e cappellino, né sembrava in preda ad alcuna urgente necessità. Inoltre era con lei Hildebrand von Glambeck, unico rappresentante di una progenie di sei ad aver sposato una fortuna ragguardevole, e la madre, abbigliata nei drappi di seta dei giorni di festa, si stava prestando a versargli del caffè. Era del tutto contrario alle usanze locali che la moglie di un pastore si presentasse in una dimora come quella senza aver prima chiesto se la sua visita fosse ben accetta. E quando la baronessa si avvide di quella figura disordinata e con gli stivali incrostati di sabbia dirigersi verso di lei lungo l'ampio salone, non fu solo costernata, ma anche parecchio irritata. Non vedeva il figlio che più le stava a cuore da 6 mesi, e si trattava della prima occasione che le si era presentato dal suo arrivo, avvenuta la sera prima, di restare un po' sola con lui, dato che aveva portato con sé da Berlino un amico e che solo dopo pranzo era riuscita a liberarsi di lui in modo soddisfacente, indirizzandolo fuori nel parco e consigliandogli di rimanervi fino a che i raggi del sole non avessero cessato di inondare un certo faggio. La baronessa era impaziente di porre a suo figlio una serie di domande. Aveva spedito anche il barone fuori a cavallo per il giro della tenuta, in modo tale da avere il tempo per formularle tutte. Era curiosa di conoscere molti dettagli sulla vita del figlio a Berlino, che a lei appariva così lontana e piena di inconvenienti, seppure sfarzosa. Di certo un'esistenza di prestigio, anche se insidiosa e meno aristocratica nel senso reale del termine della nobile stagnazione nelle province di Dio, ma sulla quale dopo tutto risplendeva la luce fulgida proiettata dalla presenza del re imperatore. In cuor suo era convinta che l'Onnipotente, anni fa, probabilmente ai tempi del suo matrimonio, quando anche lei vi si era ritirata, si fosse appartato nelle province e da lì vegliasse sui più insigni rappresentanti di quelle nobiltà di madrepatria che resistevano con tenacia sulle terre dove il destino li aveva portati a nascere. Al momento della sua partenza per le lontane province, aveva congetturato la baronessa e gli aveva affidato Berlino e Potsdam alle cure del primo dei suoi figli, il re imperatore. Ecco quindi spiegata la ragione per cui riteneva che la provincia fosse sede di una ben più nobile aristocrazia che non Berlino e Potsdam. Ed ecco anche spiegata la ragione per cui, a suo modo di vedere, Berlino e Potsdam arrivavano subito dopo in ordine di importanza. E ora, proprio quando era riuscita così astutamente a trovare il sistema per avere quell'ora di tempo da trascorrere sola con Hildebrandt per capirne tutti quei particolari sulla vita di un figlio che una madre anela conoscere, ma di cui non osa parlare in presenza del marito, un'ora da trascorrere ascoltando i racconti dei suoi pranzi, del suo denaro, dei suoi bambini, del successo riscosso dalla sua cara moglie in società in occasione dei ricevimenti a corte, ai quali era invitata in virtù del suo matrimonio con un esponente della nobiltà, e poi ancora della sua salute, della sua indisposizione di stomaco, sì, quell'antico tormento della sua pace. Ah, ma Jung! E anche chiedendogli se avesse incrociato o portasse notizie della povera Emmy, sua sorella maggiore, che aveva rimediato un misero matrimonio da 6.000 marchi all'anno e conduceva a Spandau una vita impossibile, ma di cui non avrebbe mai ammesso l'infelicità, proprio mentre stava per raggiungere la piena soddisfazione dei parecchi quesiti che le affollavano la mente, ecco presentarsi l'eccentrica e sfrontata Frau Pastor a rovinare ogni cosa. Oltretutto, Hildebrand si trovava nel bel mezzo di una di quelle storie tristi e scandalose che una persona non vorrebbe mai dover ascoltare, ma delle quali desidera comunque conoscere la fine. Lo sconcerto della baronessa fu così grande che le fu impossibile trattenersi dall'affettare incapacità a riconoscere Frau Pastor nella visitatrice, se non quando quest'ultima era quasi giunta a sfiorare la tavola apparecchiata per il caffè. Esclamò allora, senza alzarsi, ma protendendo con lentezza la mano fino a toccare quella che le veniva offerta e fissando la nuova arrivata come se si stesse sforzando di ricordare dove e quando l'avesse già vista. Ah, Frau Pastor, questo è un onore! Presentatemi, mamma, disse Hildebrand, alzando sulla tendina nell'istante in cui Ingeborg era apparsa sulla soglia. Eseguita tale cerimonia, egli risprofondò in poltrona, lasciandosi accudire e lasciando che la madre accudisse pure la visitatrice, offrendole panna e zucchero e una fetta di dolce, fino al momento in cui riuscirono a far comprendere a Ingeborg, con modi elaborati ma inequivocabili, di aver interrotto il loro colloquio. L'ospite, sentendosi umiliata, si alzò per accomiatarsi. Allora di nuovo il figlio scattò all'impiedi, mettendosi sull'attenti a talloni uniti. Che cosa fece suo marito? Chiese la baronessa, determinata ad ascoltare il resto della storia, rivolgendosi a Hildebrand con non appena Ingeborg fu zittita con un'altra tazza di caffè. Mia cara madre, le rispose Hildebrand, alzando le spalle così ponderosamente da sfiorarsi quasi i lobi delle orecchie. Che cosa avrebbe mai potuto fare? Le sparò? Naturale! Certamente, disse la baronessa, annuendo con aria di approvazione. E lei morì? No, fu gravemente ferita, ma tanto bastò. Il suo onore fu vendicato. E di certo, affermò la baronessa con un sorriso arcigno, non gli giocò più certi scherzetti. Ingeborg decise di scuotersi dall'apatia, sforzandosi di prender parte al discorso. Era notevolmente delusa e innervosita per non aver trovato la baronessa sola. Perché ha sparato sua moglie? Chiese. Dalle profondità abissali del suo affaticamento le sembrava che sparare a una moglie fosse un provvedimento alquanto energetico. La baronessa le scoccò uno sguardo carico di gelo. Il motivo, Frau Pastor, è che lei aveva peccato. Oh! Esclamò Ingeborg. Poi, animato dall'ansioso desiderio di riuscire a conversare un poco prima di tornare a casa, chiese senza tanti preamboli se in Germania fosse un'abitudine consolidata spararsi l'un l'altro quando si peccava. No, non l'un l'altro, replicò la baronessa con severità, o perlomeno non se si tratta di un marito e una moglie. È solo lui che spara. Oh, disse Ingeborg riflettendo su quanto aveva appena udito. Sedeva inerte sulla sedia, tenendo la tazza del caffè inclinata, troppo abbattuta per provare la forza di berlo. E così lei tornò ad amarlo? Chiese con voce sottile e stanca. La baronessa non degnò quella domanda della benché minima considerazione. Solo il sangue, asserì Hildebrand, può lavare il disonore di un marito. Ma è disgustoso! Disse Ingeborg in tono tetro. La vita intera le appariva imbrattata di sangue. Si chinò sulla tazza, riflettendo sulla crudeltà di cui ogni cosa sembrava pregna. La baronessa Hildebrand, dopo un breve silenzio, si girarono dall'altra parte e presero a parlare di qualcuno a cui si riferivano come la povera Emmy. Ingeborg sedeva in disparte, con il caffè in mano, chiedendosi come fare per allontanarsi prima di mettersi a singhiozzare. Terribile la facilità con la quale scoppiava a piangere di questi tempi. Avrebbe dovuto comprarsi dei nuovi fazzoletti, ultimamente erano sempre tutti da lavare. Di nuovo tentò di destarsi dallo sconforto. Doveva sforzarsi di dire qualcosa e, dato che in quel frangente era parecchio confusa e nervosa, disse la prima cosa che le passò per la mente. Perché la chiamavate povera Emmy? Chiese con la voce stanca e sottile. Tra loro piombò di nuovo il silenzio. Per porvi fine, Ingeborg chiese se Emmy fosse la moglie ferita dal marito. La peccatrice, spiegò in aggiunta, visto che nessuno le rispondeva. Il silenzio si fece angosciante. Sollevò lo sguardo, sorpresa che ogni suono fosse cessato. A giudicare dall'espressione dei loro visi e da come si stavano mettendo le cose, iniziò a pensare che forse a loro non sarebbe dispiaciuto se lei se ne fosse andata, anche subito. Si alzò, facendo cadere il cucchiaino dal piatto che reggeva la tazza. Io credo che sia ora di andare, annunciò. Mi aspetta un lungo cammino per arrivare a casa. Mi par difficile credere che sia valsa la pena di venire fin qui, proferì la baronessa, dal cui tono trapelava un gran gelo. Di fronte a tale affermazione, Ingeborg, assorbita nel fallimento dei suoi sforzi volti a trovare aiuto e sostegno, articolò un fievole: Già. Il sole era appena sceso dietro la linea della foresta. Se avesse voluto arrivare a casa prima che calasse il buio, avrebbe dovuto camminare di buona lena. Sui prati di là dagli alberi la bruma si sollevava lambendo le sfumature rose e violette che tingevano il cielo. La sabbiosa strada d'accesso che aveva percorso quel giorno torrido di luglio in cui aveva conosciuto i Glambeck si stendeva ai suoi piedi ammantata dell'incantevole bellezza dell'ultimo dei suoi vestiti di quell'anno. Un manto in tessuto di delicate trasparenze, con le foglie dei faggi già quasi tutta terra che trasformavano il percorso in un nastro rilucente. Un odore autunnale di umidità e fumo di torba proveniente dai camini dei cottage impregnava l'aria. Il luogo era pervaso da una sorta di pace mesta e lei si figurò anche all'interno di ogni casa, in ognuna di quelle famiglie, amore fraterno e benevolenza regnassero indisturbati. Scese i gradini con grande attenzione, dato che le dimensioni del suo corpo stavano già causando un certo impaccio nei movimenti. Poi si accinse a percorrere quel cammino rilucente di oro. Lottò per tenere a freno le lacrime, per non macchiare quella sera di incredibile bellezza con la delusione che la struggeva. Com'era stata sciocca supporre che solo perché aveva bisogno di parlare con lei, la baronessa Glambeck desiderasse stare ad ascoltarla. Era ovvio che gli umori non si accomodassero a vicenda tanto facilmente. Avanzava lungo la strada, tenendo il passo stabilito e asciugando diligentemente con il fazzoletto ogni lacrima, prima che le portasse disonore scendendo sulla guancia. Non vi era dubbio che prima o poi anche la baronessa Glambeck avrebbe desiderato ascoltare qualcuno. Chissà, magari proprio lei, niente di più facile. Ma in quell'occasione Ingeborg avrebbe potuto non avere alcun desiderio di parlarle. Com'era assurdo tutto quanto. Era evidente comunque che ciascuno doveva reggersi sulle proprie gambe. Non aveva senso andare in giro a elemosinare aiuto e tantomeno aveva senso piangere. Prima o poi, se avesse dato corso alla promettente carriera di madre, che sembrava essere segnata nel libro del suo destino, anche lei si sarebbe trovata un bel giorno a versare con gioia del caffè un figlio adulto e di successo, tutta la sua sofferenza e gli spasmi pacificati dal passare del tempo. Era chiaro che non era possibile avere un figlio adulto da amare e di cui essere orgogliosa se non si iniziava a produrlo in tempo. Prima o poi bisognava pure incominciare, e incominciare da giovani. Altrimenti, quando fosse arrivato il momento, sarebbe stato troppo tardi per poterlo apprezzare a dovere. Percorse la strada più in fretta che poté, tentando di aggrapparsi a una linea di pensiero valorosa, ma non riuscendo a scacciare la sensazione di dilagante sconforto di chi si sente totalmente derelitto. Che bello sarebbe stato, e come le avrebbe scaldato il cuore avere degli amici o la propria famiglia a portata di mano, in un luogo dove fosse possibile, quando ci si sentiva eccessivamente soli, andare a prendere il tè. Ad esempio, in compagnia della propria madre. Un uomo, che trasportava una gran quantità di oggetti dalla forma indefinita, le stava venendo incontro sul viale. Lo guardò distrattamente, troppo assorta nei suoi pensieri. Non si trattava del barone, e a parte lui, Ingeborg non si aspettava di conoscere nessun altro su quella strada. Quando si trovò a una yarda o due di distanza da lei, numerosi fogli di carta, esili pennelli e una quantità di aggeggi vari parvero irrompere dalla sua persona, librandosi in aria e atterrando disordinatamente sopra le foglie di faggio che tappezzavano il viale. Accidenti! Esclamò l'uomo sforzandosi di raccogliere il tutto. Ingeborg, sempre pronta ad aiutare, cercò goffamente di raccogliere quanto era accaduto vicino a lui, a lei. L'uomo, che reggeva sotto il braccio uno sgabello pieghevole, oltre una sorta di telo che risultò essere un impermeabile, era alquanto intralciato nei movimenti. Sentite, lasciate stare, esclamò, lottando con gli oggetti raccolti che tendevano a scivolargli nuovamente di mano. Ma è delizioso, disse Ingeborg, tenendo a una certa distanza, con il braccio teso uno dei fogli, ammirando con gli occhi arrossati il faggio lì disegnato. Certamente un faggio celestiale, la cui chioma era accesa da una tale magnificenza di luce che non sembrava affatto un albero terreno, ma un suo corrispettivo paradisiaco. A guardarlo da vicino, si trattava solo di colore distribuito sulla carta con pennellate sommarie. Era necessario tenere a una certa distanza per poter apprezzarne in pieno la bellezza. Soffiò via alcuni granelli di sabbia appiccicatisi alla carta per poi tendere il braccio e rimirarlo ancora. È davvero delizioso, ripeté. Guardate, non sembra risplendere di luce propria. Certo, anche l'albero del resto, le disse approssimandosi, osservando lo schizzo per un attimo da sopra la sua spalla, le mani piene degli oggetti che aveva raccolto da terra. Avevano detto che avrebbe mandato un domestico per tutta questa roba, ma non è venuto nessuno. Detesto trasportare dei carichi. Vi aiuterò io, lo soccorse Ingeborg. Sciocchezze. E poi non state andando in quella direzione. No, sono appena venuta via. Ma se vi fa piacere, posso tornare fino ai gradini. Sciocchezze. Lascerò una parte del materiale qui, appoggiato al tronco. Lo vedranno senz'altro. Ma con questo... Non lasciatelo, gli disse sempre fissando il bozzetto. No, lo prendo con me e vi accompagnerò per un pezzo di strada, perché non riesco a figurarmi dove potreste essere diretta a quest'ora del giorno che non sia a casa Glambeck e sono curioso. E poi perché trovo interessante il fatto che siete inglese. Oh no, voi siete molto più interessante di me, ribatté Ingeborg raccogliendo una matita da un cumulo di sabbia e aggiungendola alla catasta di oggetti che lui stava impilando contro l'albero più vicino. Io sto semplicemente andando a casa. A casa? A casa. Egli disfece l'ammasso di oggetti e iniziò di nuovo. La successione con cui l'aveva costruito era errata. Naturalmente lo sgabello pieghevole avrebbe dovuto costituire la base sulla quale appoggiare gli oggetti più piccoli che tendevano a scivolare. Poi, piegato con cura e rimboccato a contenere il tutto, il telo impermeabile. Quella donna aveva l'aspetto di una giovane governante inglese o di un'infermiera diplomata in servizio presso una tenuta vicina, dato che parlava di casa. Se era così, allora non nutriva più alcun desiderio di accompagnarla. Niente, infatti, gli appariva più noioso di una governante inglese o di un'infermiera diplomata. Terminò di sistemare il telo e si voltò per prendere il disegno dalle mani di lei. Ingeborg ne osservò la figura alta dal collo sottile e la barba rossiccia che gli incorniciava il viso. Egli notò che la donna indossava un cappotto di alcune taglie troppo piccole e che sul suo viso spiccavano un naso arrossato e due occhi colmi di lacrime.